Olimpia. Tutti i duelli tra gli dei dello sport. Di Dario Ricci. Alle Olimpiadi, finalmente, tra le novità che ci aspettano quest'anno ai giochi di Tokyo 2020, c'è l'esordio infatti nel programma ufficiale dell'Olimpiade estiva dell'arrampicata sportiva. Una rincorsa che parte da lontano, con le prime gare internazionali negli anni 80 e approda ora ai 5 cerchi, tra l'altro con l'inserimento, pressoché certo anche nel programma delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove anzi a questa disciplina spettacolare, di grande appeal, soprattutto tra giovani e donne, dovrebbe essere garantito anche una presenza più consistente con l'assegnazione non di una sola ma di due medaglie sia in campo maschile che femminile. Alla rassegna giapponese ci sarà anche l'Italia intanto. Finora qualificati due azzurri, nostri ospiti fra pochi istanti, ma c'è ancora la speranza di poterne qualificare qualcun altro. Quanto già fatto comunque ha il sapore di una sfida già vinta. Ne parliamo col nostro primo ospite, Davide Battistella, presidente della Federazione Italiana di Arrampicata Sportiva. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie e buonasera a tutti. Presidente, prima Olimpiade per l'arrampicata e subito due azzurri qualificati. Direi una bella soddisfazione per tutto il movimento. Sì, sì, siamo molto contenti. Una qualifica di due atleti alle Olimpiadi, alle prime Olimpiadi di arrampicata sportiva, ovviamente per noi è un grande successo, ma è un successo fondamentalmente per il movimento dell'arrampicata. Ecco, riuscire ad andare a questa massima espressione dello sport agonistico è stato veramente un successo tutto degli atleti che si sono riusciti per ora a qualificare, ma anche un po' del lavoro che è stato fatto dai tecnici, dalla federazione, dal movimento in sé, che quindi ne può trarre sicuramente un grande giovamento, soprattutto proprio per esserci, per essere presenti a questa grande manifestazione. Una sfida vinta, come dicevamo, che corona un lungo inseguimento per acciuffare questi cinque cerchi. È ovvio che essere presenti alle Olimpiadi, che non era facile, non era scontato, anzi tutt'altro, è stata insomma una bella scommessa, perché sono le Olimpiadi della storia dell'arrampicata queste, quindi io personalmente ho partecipato alle prime gare di arrampicata, Bardonecchi 85, 86, quindi all'inizio, no, di questo percorso, più di 30 anni fa. È ovvio che in questo momento essere presenti a uno sport che è diventato in effetti con tutti i crismi di tutti gli altri sport, essere consacrati insomma alle Olimpiadi è sicuramente tanta roba per il movimento in sé. Poi è ovvio che l'arrampicata sportiva non è solo strutture artificiali e competizioni, ma è anche palese. Ci sono tantissimi appassionati che arrampicano sia nelle strutture artificiali che nelle palese, amano tiri, più tiri. Non dimentichiamo che l'arrampicata sportiva nasce a Bardonecchia sui monotiri spittati, sulla roccia spittata. È da lì che parte tutto, e quindi la roccia è comunque una componente fondamentale di questa disciplina, che da molti atleti viene comunque praticata, lontano magari ovviamente dalle competizioni, nelle fasi così dell'allenamento, dello stacco un po' dal stress competitivo, ma ha comunque un suo fascino e una sua particolarità. E allora, presidente Battistella, chiamiamo subito in causa la nostra prima atleta olimpica. Sì, una donna, che comunque vada a Tokyo, resterà nella storia come la prima olimpionica italiana nell'arrampicata. Romana, classe 2001, con i suoi 147 centimetri di altezza è un concentrato di energia e agilità, tanto che molti l'hanno già soprannominata Spider-Woman. Grazie anche e soprattutto al suo palmarès, coi titoli mondiali juniores conquistati la scorsa estate nella specialità lead, boulder e combinata, e anche per essere stata la prima italiana a salire una parete di grado 9A. Laura Rogora, benvenuta a Olimpia, la città dello sport. Grazie, buonasera. Laura, immagino una grande emozione al conseguimento della qualificazione olimpica nella gara di qualche tempo fa a Tolosa. Sì, sì, assolutamente, e anche perché la qualifica era molto difficile, erano disponibili solo 20 posti in tutto il mondo e quindi i criteri di selezione erano veramente tosti e non pensavo veramente di farcela e riuscirmi a qualificare. È stata forse l'emozione più grande della mia carriera fino adesso. E ora a Tokyo cosa ti aspetti? Penso che sarà un'esperienza fantastica perché comunque sarà, è una gara particolare in cui ci sono tanti sport e quindi ci sarà un'organizzazione particolare, saremo tutti là nel villaggio olimpico e boh, non vedo l'ora di scoprirlo come sarà. Tra l'altro tu hai già vissuto il clima olimpico in occasione dei giochi giovanili di Buenos Aires 2018. Ecco, cosa ti aspetti di diverso rispetto a quell'esperienza in Giappone? A Buenos Aires c'era un clima che era un po' di festa, che penso che non ci sarà di nuovo a Tokyo, sarà più una cosa seria. Buenos Aires era più, diciamo, una manifestazione, sì, c'era un po' un clima di festa, infatti c'erano dei giochi là al villaggio olimpico un po' per aiutare a socializzare i ragazzi, quindi secondo me Tokyo sarà molto diverso. Una sola medaglia a disposizione sia per uomini che per donne a Tokyo, con una gara che metterà insieme le vostre abilità sia nella prova lead che boulder che speed. L'arrampicata farà il suo esordio con una specialità un po' nuova che è la combinata e quindi è un po' una sorpresa per tutti, perché le prime gare di combinata sono state fatte quest'anno per le qualifiche olimpiche e vedremo un po' come andrà. Spero che comunque al pubblico piaccia, perché è uno sport comunque interessante e bello da vedere. Sicuramente è stato un compromesso, perché avendo una sola medaglia e avendo tre specialità, qualsiasi scelta avrebbe scontentato qualcuno. Quindi è stato un po' un compromesso. Sì, probabilmente, ovviamente non si premierà il più forte nella singola specialità, ma si premierà l'atleta più completo. Ora raccontaci un po' di te, Laura. Da quel che so, a indirizzarti all'arrampicata è stato tuo papà, Enrico, professore di matematica all'Università La Sapienza, a Roma. La prima volta che ho arrampicato avevo circa 4 anni e appunto mio papà ha portato me e mia sorella in una falesia vicino casa a provare. E poi andavamo ogni tanto il weekend, però ho iniziato proprio ad arrampicare a 6 anni quando abbiamo trovato una palestra vicino casa. Facevo ginnastica artistica, per il primo anno ho fatto una volta a settimana arrampicata, poi ho deciso che l'arrampicata mi piaceva di più, ho lasciato la ginnastica artistica e ho fatto solo arrampicata. Cosa ti è piaciuto di più subito di questa disciplina? Ma il fatto che i movimenti fossero sempre diversi e non ci fosse uno schema fisso da seguire, che invece c'era nella ginnastica artistica. Tra l'altro, fino ad ora ti sei tolta delle belle soddisfazioni non solo in palestra, ma pure su roccia, vero? Oltre all'arrampicata in palestra, dove si svolgono le gare, poi mi allenavo anche su roccia. E le vie più significative vicino a casa sono state il mio primo 9A alla Grotta dell'Arenauta, che si chiama Grandi Gesti, e poi ho aperto numerose vie, ho liberato in realtà numerose vie a Colle Pardo, e un'altra di grado 9A, che è il massimo grado che ho raggiunto per ora. E chi è il tuo idolo, il modello da seguire? Il mio idolo è Adam Ondra, che secondo me è lo scalatore più forte del mondo, è forte in tutte, sia nelle gare, ma anche su roccia e anche nelle multipitch, su vie, quindi è forte in tutte le varie sfaccettature dell'arrampicata. Una disciplina, l'arrampicata, che tra l'altro sta conquistando sempre più praticanti donne, giusto? Diciamo che l'arrampicata è uno sport che non è solo forza, quindi cioè, gli uomini sono sicuramente più avvantaggiati, però su alcune cose le donne riescono comunque a stare dietro agli uomini. E poi la presenza a Tokyo darà un'ulteriore spinta. Beh, sarebbe comunque il fatto che l'arrampicata è uno sport olimpico, lo faccia conoscere molto di più a tutti e quindi abbia anche una ripercussione sul numero di iscritti e alle varie palestre e alla federazione. E penso comunque, mi sembra che già quando è entrata a far parte del programma olimpico la gente abbia cominciato a conoscerla di più e adesso vedremo che cosa succederà dopo Tokyo. A proposito, dopo Tokyo, ecco Parigi 2024 per crescere ancora di più. Speriamo che a Parigi ci diano più medaglie e si vocifera che forse ci saranno 2 medaglie e in questo modo si cominciano a separare le varie discipline. Ma torniamo a guardare per ora al Giappone. Chi sono le favorite? Allora, forse la più favorita è una slovena, Janja Gambret. Poi ci sono 2 giapponesi, un'altra slovena, che sono, diciamo, le nazioni più Slovenia e Giappone sono le nazioni più forti, però diciamo che ce ne sono anche altri che potrebbero far bene. Il tuo personale obiettivo? Beh, l'obiettivo è sempre uno solo, che è quello di vincere. Ovviamente sarà difficilissimo, quasi impossibile, e quindi l'obiettivo è cercare di fare il massimo. E allora, Laura Rogora, in bocca al lupo, e intanto grazie per essere stata ospite di Olimpia, la città dello sport. Crepi il lupo e grazie a voi, buona serata. Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia per questa puntata tutta in verticale. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24, la passione si sente anche in podcast. Olimpia. Sogni verticali, quelli che si sta e ci sta regalando l'arrampicata sportiva in vista di Tokyo 2020, edizione dei giochi in cui questa disciplina entrerà ufficialmente nel programma olimpico, con l'Italia che sarà rappresentata da ben due atleti, sperando nel frattempo o in questi mesi di qualificarne anche altri. E oggi a Olimpia vi raccontiamo proprio la sfida dell'arrampicata. Ritroviamo allora Davide Battistella, presidente della Federazione Italiana di Arrampicata Sportiva, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport, presidente. Buonasera a tutti. Presidente Battistella, approdiamo a Tokyo, ma quali sono i numeri del movimento dell'arrampicata in Italia? Allora, per quanto riguarda, diciamo così, i tesserati, il movimento è in crescita, ma negli ultimi anni si è proprio registrato un aumento notevole. Sia per probabilmente un po' in questo momento anche la ricerca di sport alternativi, ma l'arrampicata sportiva è comunque molto gettonata, stanno nascendo tantissime strutture di arrampicata, soprattutto boulder, noi abbiamo aumentato di, quindi siamo già quasi a 40.000 tesserati nel giro di pochi mesi, e c'è un trend veramente a salire, probabilmente legato sia a un fenomeno, diciamo così, naturale, ma anche a una visibilità che è aumentata, che aumenterà sempre di più, perché è ovvio che diventando sport olimpico, diciamo, ci sarà più possibilità di far vedere, di far capire che cos'è questo sport, e quindi, essendo poi anche uno sport che si può fare in qualche modo abbastanza semplicemente, attirerà sempre più appassionati. Appassionati, tanti appassionati, presidente Battistella, che tra l'altro si raduneranno a breve alla Milano Climbing Expo 2020, la grande festa dell'arrampicata ospitata dalla palestra Urban Wall di Ropero, il prossimo 31 gennaio e 1 febbraio. Appuntamento che vedrà presenti anche i due azzurri finora qualificati a Tokyo 2020. E allora, abbiamo già conosciuto Laura Rogora, mentre salutiamo il presidente Battistella, spazio quindi ora a chi si è garantito il diritto di rappresentare il nostro paese in campo maschile. Trentino, classe 1997, ha vinto la medaglia d'oro nella specialità speed al campionato del mondo di arrampicata 2019 proprio in Giappone, ha vinto anche una tappa della Coppa del Mondo a Edimburgo nel 2017, un bronzo ad Arco di Trento sempre in quell'anno, una medaglia d'argento e una di bronzo nella tappa di Wujiang nel 2018 e nel 2019. Ludovico Fossali, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie mille dell'invito e ciao a tutti. Ludovico, cronologicamente parlando, sei stato tu il primo azzurro a qualificarti per Tokyo, seguito poi da Laura Rogora. Sì, è una grande soddisfazione e sono orgoglioso di rappresentare per la prima volta l'Italia alle Olimpiadi. E sì, un peso, perché comunque molti crederanno in me, e quindi mi sto allenando per arrivare alla medaglia, ma ci saranno altri 19 atleti molto forti. Intanto però l'estate scorsa, proprio in Giappone, te li sei messi tutti alle spalle, laureandoti campione del mondo nella specialità speed, cioè appunto velocità. Prima di partire per Tokyo sapevo che c'era questa grande possibilità di fare podio al mondiale nella mia specialità, ma non ero così vicino ai più forti negli allenamenti precedenti alla partenza, e quindi non ero così quasi convinto, ecco. Poi però in gara mi cambio, mi trasformo e entro nella modalità competitiva ed è andato tutto per il meglio, ecco. Ecco, ci aiuti a capire un po' le differenze tra speed, la lead o definita anche difficoltà, e il boulder. La speed è quella, diciamo, più facile da intuire, sono due atleti che salgono parallelamente, sono due vie uguali. Quindi l'obiettivo è arrivare prima dell'avversario. E la difficoltà invece è una via molto complicata, molto complessa, quindi di resistenza, che va di solito di altezza 15-20 metri, e l'obiettivo è arrivare più in alto possibile. E invece il boulder, che è la specialità più bassa, si fa senza corda, solo con i materassi, perché è alta massimo 4 metri, e ci sono diversi problemi molto intensi e devi riuscire a fare il più possibile. E come vengono modificati i tracciati? A parte la mia specialità, la speed, dove la via è sempre uguale ormai dal 2007, la difficoltà e il boulder cambiano sempre di gara in gara, e quindi anche la capacità di riuscire a leggere i boulder o la via, si dice, è una capacità che l'atleta ha, perché ogni atleta con le varie dimensioni, diciamo altezza, peso, può interpretarla in modo diverso. Quindi da velocista, se ho capito bene, stai lavorando per crescere anche nelle altre discipline in vista della combinata olimpica. È proprio quello la parte difficile in cui sto cercando di migliorare, perché ovviamente finora tutti gli atleti sono cimentati solo nella disciplina che gli piaceva di più, e quindi siamo un po' allo sbaraglio adesso, come dire, che dobbiamo inventarci queste altre due discipline in meno di un anno. Quindi stai studiando come un matto, diciamo così. Sì, allenandomi come un matto. La tua giornata tipo come si svolge? Sono due allenamenti al giorno, e in cui cerco di dividere, per esempio su due giornate, in una faccio la mia specialità e nella seconda giornata faccio o difficoltà o boulder, e lavoro proprio sulle specifiche che mi mancano maggiormente, perché magari coordinazione o esplosività già ce le ho perché faccio la mia specialità, ma magari forza nelle dita mi manca, quindi lavoro su quelle parti fondamentali anche. Spiegaci un po' come ci si allena per rinforzare le dita delle mani, appunto, elemento che per voi è decisivo. Sì, è fondamentale, direi. Ci sono ovviamente dei travi apposta, che sono degli attrezzi in cui ci si appende, e la dimensione della presa dove vai a mettere le dita diventa sempre più piccolina, per allenarsi sempre di più alle prese piccole che poi troverai nella gara. E quindi questo fondamentalmente. Fai anche molta palestra? Adesso con gli allenatori c'è la fase di potenziamento, quindi di palestra pesi ne faccio, ma soprattutto per la speed, per riuscire a mantenere il livello alto nella speed. E per lead e boulder faccio più in palestra di arrampicata, arrampico e trave, come già detto. A Tokyo ti troverai in una dimensione tutta nuova, diversa. Un po' preoccupato? Quello mi spaventa un pochino, perché finora eravamo nella nostra casa, nella nostra famiglia, e quando arriveremo lì alle Olimpiadi non so ancora se dormirò al villaggio olimpico o dove, ma comunque saremo circondati da atleti o federazioni completamente diverse di tutt'altro mondo rispetto alla nostra, quindi sarà, a parte un'esperienza bellissima e nuova, sarà un aspetto da gestire in vista della gara, ecco. Al villaggio però potrai incontrare tanti campioni di altri sport. A chi chiederesti l'autografo? Sono appassionato di basket, lo guardo, sarebbe bellissimo vedere e incontrare qualcuno. Non so se la nazionale di basket è qualificata, italiana infatti. Speriamo, vorrei due autografi da loro, così anche mio fratellino sarebbe contento. Allora speriamo davvero che gli azzurri della pallacanestro facciano l'impresa per accontentarti qualificandosi. Intanto a Parigi 2024 la speed dovrebbe assegnare una medaglia a sé stante, quindi per te sarebbe una bella possibilità di podio. Sì, diciamo che mi sono conquistato questa, che è più difficile, che era più difficile, e tra altri 4 anni ce ne sarà una, speriamo più facile da conquistare se continuo di questo passo, ma che comunque fa ben sperare per arrampicata, anche perché avere più medaglie vuol dire anche avere più visibilità e più contesto nel mondo olimpiadi. Senti, ma tu come hai iniziato ad arrampicare? Sempre arrampicando per i mobili, quando i miei genitori hanno capito che non era troppo sicuro e mi hanno portato in palestra, e da lì ho incominciato e non ho mai smesso. Ho provato anche altri sport, ma l'arrampicata ha sempre dominato. È strano, però iniziamo un po' tutti così, chi più giovane, chi più anziano. E magari a casa hai una tua piccola palestra per arrampicarti come tanti tuoi colleghi? No, io ho solo il trave in casa. Sarebbe fantastico avere una palestrina, perché mi muovo davvero tanto in macchina, ma quello magari più avanti, quando avrò magari io la dimora fissa. Ecco, l'arrampicata dopo Tokyo 2020, come te la immagini? Credo che esploderà nuovamente, sta già crescendo molto e credo che siamo uno degli sport con più e appassionati giovani che lo praticano, e credo che le Olimpiadi darà un ulteriore boom all'arrampicata. E se chiudi gli occhi adesso e pensi alle Olimpiadi, che immagine vedi? Non saprei. Il villaggio olimpico è una cosa di cui sono davvero curioso. Per ora quello, non ho voglia di fare gare o altro. Ludovico Fossali, grazie per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie mille a voi. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.